Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose day's but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Ciao a tutti, questo era Leonard Cohen che ci ricorda di ascoltare. Io sono Lollo Cat e questo è Club Chimera, un programma radio dedicato al mondo dei suoni, della musica e quindi dell'ascolto. Oggi abbiamo la prima puntata con un ospite, che è l'attrice italo-tedesca Laura Talenti, con cui ci conosciamo oramai da tantissimi anni, da quando abbiamo vissuto insieme a Berlino tra il 2015 e il 2016 e abbiamo immaginato tutte le cose che avremmo fatto artisticamente, creativamente parlando insieme, e quindi eccoci qua. Vuoi dire qualcosa? Ciao, sono molto contenta di essere qua e di finalmente fare qualcosa assieme noi due. Adesso ci imbarchiamo. Questa puntata è la prima puntata tematica del programma ed è dedicata al tema della voce. Quando si parla di suoni, di ascolto, la voce ovviamente ha un'importanza particolare, perché siamo abituati a pensarla come un mero strumento di comunicazione che serve a appunto comunicare, convogliare dei significati. E spesso ci dimentichiamo del portato sonoro che la voce ha, quindi di tutte quelle caratteristiche sensibili e affettive che può trasmettere insieme alle parole che comunica. C'è un libro importantissimo che vi consiglio, di Adriana Cavarero, una filosofa femminista. Il libro si intitola A più voci, filosofia dell'espressione vocale. E in questo libro Adriana Cavarero proprio va a rintracciare l'importanza del portato sensibile, del portato estetico della sonorità delle voci, ricordandoci quanto poco questo portato sia stato preso in considerazione, a discapito invece di una razionalità logocentrica di quello che andiamo a comunicare. Cavarero fa un parallelismo con un sistema di pensiero patriarcale, per cui ci ricorda che tutto ciò che è razionale e logocentrico nella cultura occidentale, nella nostra società, viene associato alla figura maschile, all'uomo che pensa e all'uomo che ragiona. Mentre al contrario, molto spesso per le figure femminili, ci ricorda per esempio l'esempio delle streghe, l'esempio delle sirene, o anche l'esempio di tanti personaggi femminili nella storia della letteratura e della narrativa, che addirittura non hanno voce, che rimangono mute, ci ricorda come spesso per quanto riguarda il femminile la voce viene o depotenzializzata, e quindi appunto viene resa muta, incapace di di comunicare dei significati, oppure se ne viene considerata solo ed esclusivamente il portato irrazionale, il portato sonoro, come l'esempio del canto delle sirene o dell'urlo delle streghe. Cavarero fa un'operazione importantissima, riprendendo, ridando significato a questo portato sonoro, portato affettivo, e ricordandoci che senza di esso non esisterebbe neanche la capacità comunicativa razionale della voce. Un piccolo disclaimer che mi sento di fare è che Cavarero è una filosofa della seconda ondata del femminismo, che è stata importantissima per la storia dei femminismi, ma che dal mio punto di vista continua a rimanere incastrata in un binarismo troppo stretto. Continua a dividere fortemente tra le voci maschili e le voci femminili e si dimentica di tutte le voci che ci sono in mezzo. A me però piace comunque considerare l'importanza del suo pensiero e applicarla a tutte le voci, alla pluralità di voci che creano la nostra società contemporanea. Bene, nella puntata di oggi, partendo da queste riflessioni, ci siamo chieste come dare risalto a questa voce. Sono partito da un passo tratto da un racconto di Italo Calvino chiamato Un re in ascolto, che è lo stesso passo da cui in realtà parte Adriana Cavalero, nel cui passo Calvino dice: una voce significa questo, c'è una persona viva, gola, torace, sentimenti, che spinge nell'aria questa voce diversa da tutte le altre voci. Per dare significato, per dare risonanza a questa idea, abbiamo pensato che non ci sia niente di meglio che partire dalla poesia, quella forma d'arte che fa proprio della voce il veicolo espressivo più importante, quella forma d'arte che attraverso la voce ci racconta sì dei significati, ma lo fa distruggendoli, ribaltandoli, ricostruendoli, e soprattutto quella forma d'arte che ai significati accosta sempre e comunque un portato sonoro. Abbiamo quindi deciso di associare musiche e poesie. Abbiamo preso le poesie di Patrizia Cavalli, tratte dal libro Vita meravigliosa. Patrizia Cavalli è una poeta, sempre vissuta nella seconda metà del Novecento, ma ancora fino all'altro ieri, è morta nel 2022, ed è una poeta che è formidabile nella sua capacità di raccontarci un altrove, di raccontarci un chimerico, appunto, che è sempre un po' il filo conduttore di questo programma, partendo però dal quotidiano. Quindi con un linguaggio molto semplice ci racconta tutto quello che nel linguaggio non può essere spiegato, ma che può essere evocato, e lo fa appunto attraverso l'uso della poesia. Prima di partire però con questo viaggio musicale e poetico, mi piacerebbe un po' parlare con appunto Laura, che ospite qua oggi, di che cosa significhi recitare poesia e anche che cosa significhi esprimere significati tramite dei suoni. E vorrei partire dal fatto che Laura, come ho detto in presentazione, è italo-tedesca e quindi parla due lingue. Ed è molto interessante a questo punto notare la differenza tra dire ciao o dire hallo. Sono la stessa cosa, ma sono due suoni completamente diversi, soprattutto quando poi si recita. Quindi forse la mia domanda per introdurre un po' questo viaggio sonoro sulla sonorità della voce a Laura è: che cosa cambia per te, non da un punto di vista sociale, che ti trovi in Germania piuttosto che in Italia, non da un punto di vista comunicativo, ma da un punto di vista proprio esperienziale, quando reciti in italiano o quando reciti in tedesco? Come cambiano i suoni, la tua postura, il tuo essere nello spazio e il tuo comunicare con le persone che ti stanno intorno? Ma credo che sia una cosa che, come hai detto tu, è legata all'esperienza, quindi è una cosa che si sviluppa nel tempo. E mi ricordo, e lo dico perché mi ricordo soprattutto che quando ho iniziato a studiare recitazione in accademia, mi rendevo conto che quando imparavo a memoria i testi da poi recitare, che spesso mi creavano un'immagine meno vivida, perché era più legato tipo al testo, era più legato al libro, alla parola, cioè alla parola scritta proprio, e meno al vissuto, perché comunque io sono cresciuta col tedesco, che per me era una lingua che parlavo con gli insegnanti, con mia mamma e con mia nonna, ed era meno un linguaggio che parlavo con i miei coetanei. E questo nel corso dell'accademia è cambiato, e quindi è cambiato anche un po' il mio modo di parlare il tedesco e quindi di recitare in tedesco. Adesso sono più a mio agio e le immagini sono più veloci che scorrono quando mi immagino quello che dico. Però ad esempio noto che ancora adesso l'italiano per me ha più colori, ad esempio, è legato anche più a una, adesso mi viene la parola in tedesco, Sehnsucht, a una, come si traduce adesso? Non solo il significato ma anche il suono, prova a tradurci Sehnsucht. Il suono di Sehnsucht in italiano. Sehnsucht è una specie di non malinconia che è più rivolta verso il passato, ma è una specie di saudade, un desiderio del futuro, esatto, sì. Una chimera, ecco, una chimera. Beh, molto interessante, perché dal tuo racconto ritorniamo al tema di prima, per cui sembra che il tedesco per te sia stata una lingua razionale, sì, la lingua della scuola, dell'insegnamento, e poi la lingua del testo, del sì. testo teatrale. Quindi un'altra domanda che mi viene da chiederti è: come hai fatto a rimettere i colori, a rimettere l'esperienza dentro alla recitazione in tedesco? Ti ricordi qualcosa che magari ha cliccato, che ti ha fatto iniziare a vivere quei suoni? Beh, direi vivendo lì, nel senso che mi ricordo che quando ero in Germania all'inizio avevo una certa non mi piaceva molto usare lo slang tedesco, perché era, non so, uno slang che quando lo ascolto non mi evoca grandi colori, o non mi evoca una voglia di parlare, o evocava, e a un certo punto però ho rinunciato a questa versione verso lo slang tedesco, ho iniziato a usarlo normalmente proprio nel quotidiano anch'io, e ormai ovviamente questa associazione sì, se n'è andata, e lo uso come tutti, e mi diverto anche ad usarlo, e quindi andando oltre a questa mia, non so cosa fosse, questo mio rifiuto, andando oltre, ho fatto lo step, e quindi adesso vivendo lì si aggiungono ovviamente i colori e le associazioni. Va bene, grazie delle condivisioni. E allora, a proposito di vita, direi di iniziare con la vita meravigliosa che ci racconta Patrizia Cavalli. Parla a se stesso, il pazzo, e si consola. E il santo parla solitario a Dio. E io? A chi parlo quando parlo da sola? Parlo a qualcuno che non sono io, ma una platea, vista di sbieco al volo, mutevole a seconda del mio tono, che non risponde mai, ascolta solo se la parola trova il giusto suono. Questa muta assemblea inconcludente, che non fa petizioni, non si ostina a voler controbattere, opinare. Mi anima di speranze la mattina. Avere un tale dono della mente. Poter parlare e farsi anche ascoltare. Cosa? Cosa? Cosa cosa? Cosa cosa cosa? Cosa? Cosa non devo fare? Cosa cosa cosa cosa non devo fare per togliermi di torno? Per togliermi di torno la mia nemica mente? Cosa non devo fare per togliermi di torno la mia nemica mente? Ostilità perenne. Ostilità perenne alla felice colpa di essere quel che sono. Il mio felice niente. Cosa non devo fare per togliermi di torno la mia nemica mente? Ostilità perenne alla felice colpa di essere quel che sono. Il mio felice niente. Avere il whisky. Avere il whisky in casa è un gran vantaggio. In quattro sorsi passi dal peggio al meglio. Ogni parola splende. Ogni parola splende e ne convieni. E i destini sfortunati, li sollevi all'esistenza nella gloria, o almeno semplicemente a esistere così. Avere l'whisky in casa. Questo dimostra che noi non siamo quel che siamo, che il nostro essere si accende quando è caldo o si disperde nel freddo buio della sobrietà. Avere l'whisky in casa. Ma in ogni caso qui non si conclude niente. È questo il bello. Non si conclude niente. Per quanto vorrei dire che sono soddisfatta di aver aperto la bottiglia buonissima di whisky che mi è costata tanto e che altrettanto mi restituisce quel che deve. Si tratta di un Ben Rinners 96, 16 anni soli di vecchiaia, che non è niente per un whisky con pretese. Ma che vi devo dire? A me mi ha steso, quasi felice, anzi, direi mi ha acceso, senza limite inoltrata, non so dove. Di certo ora, ubriaca. Occupata da poveri pensieri, la puzza di fritto, il freddo. Dov'è la mia anima? Dov'è la mia anima? Senza sonno, ma non sveglia. Torpida e irrequieta. Rassegnata ma querela. È questa la mia anima. Cuore fermo che non pensa. Mente astiosa che non sente. Non c'è nulla. Nulla. Nulla, nulla, non c'è nulla che mi accende. Ma avrò davvero un'anima? Cerco di cerco di ricordare, ma è un compito il ricordo. Colpa dell'orologio che fa troppo rumore. O è il tavolo di marmo, che certo non è caldo. Ma l'anima è mortale e quindi immateriale. Se poi scopro che un'anima noiosa quanto me, se poi scopro che un'anima noiosa quanto me, faccio meno dell'anima, mi accontento di me. Meravigliosa. Sempre mi meravigli che pure senza figli mi resti ancora sposa. Vita, vita meravigliosa. Vita meravigliosa, sempre mi meravigli che pure senza figli mi resti ancora sposa. Vita. Sei quel che si dice la mia musa. Se non mi amusi più, perdo ogni scusa. Mi sembri un po' stupito, perché rimango qui indifferente, come se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente. Ti sei innamorato, cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire da adesso, per ragioni ovvie di orgoglio e di sesso. Invece niente, no, non sento niente, no, nessun dolore, non c'è tensione, non c'è emozione, nessun dolore. L'applauso per sentirsi importante, senza domandarsi mai per quale gente. Tutte le occhiate maliziose che davi erano semi sparsi al vento, qualcosa che perdevi. Dovrò dare una paghetta alla mia musa, perché non smetta mai di amusarmi. Se non mi amusa più, che scusa trovo per le mie commediole e per i miei drammi? Mi si disfa, se mi si disfa nel cuore la parola e non ho mente per rivelarla insieme, è vita morta, sopravvissuta a morte. Le scale, non salita pensierosa, ma scale solo scale faticate. Basta un piccolo arco che si tende da un suono all'altro, un arco che comprende. E ancora per un po' io sono insieme. Solo perché si anima ancora per un po' la cognizione. È feroce, perversa crudeltà, tenere le parole separate. Sturatemi le arterie. Sturatemi le arterie, o sangue corri. Vai dove deve andare, scalda. Scalda il cuore. Ma prima di morire, forse potrò capire la mia incerta e oscura condizione. Forse, per non morire, continuo a non capire, sicura in questa chiara confusione. Quando il pensiero non è più abitante del tempo, perché un qualche terrore l'ha distolto e perso il passo, si muove fuori tempo fino a cadere nello smarrimento. Allora, d'improvviso, si fa fermo e diventa soltanto il suo presente, immenso, immobile, unico spavento di essere quel che è, compagno al mondo. C'è in noi, in ognuno credo, questa specie di estintore o di valvola che sta apre togliendo ogni potenza a quel pensiero che sa cos'è il bene e cosa il male. Pensiero consapevole che ordina in un chiaro giudizio temporale le azioni da intraprendere o evitare. Forse ciò accade per troppa combustione di quel che viene inteso cerebrale. E il fuoco del pensiero, pur stemperato, trova altre strade, ma contorte. Invece di salire, scende con cenere bruciante verso il cuore, che è pronto lì a raccogliere i lapilli di un amore vulcano in estinzione e a farne bei gingilli da mostrare come prova suprema di esistenza di quell'amore che in lui trova proterva gioia di sistemazione eterna finché non verrà sciolto nella terra. Condannata dunque a essere umana, per dare nomi a quell'oscuro centro del quale sono parte involontaria. Che sia soltanto mio o anche vostro, io non lo so. Ma è lì e riconosco che in quanto mio è forse pure vostro. Potere certo che non ha durata nel tempo aperto, se ne sta nascosto. Ma io so che c'è. Lo so da come smania. Pensiero che non sente, non pensa veramente. Solo un forte sentire lo costringe a capire la necessaria verità presente. Pensiero. Pensiero che non sente, pensiero. Pensiero che non sente e non pensa veramente. Solo un forte sentire lo costringe a capire, lo costringe a capire la necessaria verità presente. Pensiero, pensiero che non sente. Se posso perdonare, allora devo riuscire a perdonare anche me stessa e smetterla di starmi a giudicare per come sono o come dovrei essere. Qui non si tratta di consapevolezza, ma è la superbia che mi tiene stretta in una stolta morsa che mi danna. Eccomi, Eccomi infatti qui, dannata, a chiedermi che cosa fare per essere perfetta. Tenersi all'apparenza. Forse descrivere soltanto cose in mutua tenerezza. Distratta e stordita dal freddo e dai rumori, ritrovo ora i stupori a primavera. Accogliere le prime note in attenzione e preghiera, ascoltare, raccogliere parole. Grazie, non so che altro dire. Sono molto contento di questa prima puntata con meno parole. Ho tante parole, ma più parole sonore, meno mie parole razionali. Finiamo in bellezza. Non si può fare questa operazione che Laura e io abbiamo fatto senza tenere conto che Patrizio Cavalli stessa lo fece, insieme a Diana Tegera, una cantante che ha messo in musica alcuni dei suoi testi, dei testi delle sue poesie. Quindi finiamo con una loro canzone, con uno dei titoli più teneri che esistano: Al cuore fa bene far le scale. Al cuore fa bene far le scale. Al cuore fa bene far le scale, al cuore, ma se non fa le scale, al cuore fa bene far l'amore, il cuore qualcosa deve fare che altrimenti muore, si muore il cuore. Non può dormire, non può sparire, se va in pensione non è più. Lo tieni a pian terreno, l'hai chiuso in un cassetto. L'hai congelato bene, ci hai messo un bel fiocchetto. Pari papà, rapà papà, papà, papà, papà, para papà, papà, rapà papà, papà, para papì papà, papà, rapà papà, papà, papà, papà, rapà papà, papà. Ma al cuore fa bene far le scale, al cuore fa bene far le scale, al cuore. Ma se non fa le scale, al cuore fa bene far l'amore, il cuore qualcosa deve fare, che altrimenti muore. Si muore, si muore, il cuore. Fallo in